Buonasera, direi che possiamo pian pianino partire. Un caro saluto e un benvenuto a tutti da parte della Biblioteca Provinciale, in particolare dalla nostra direttrice, la dottoressa Valeria Trevisan, che questa sera non può essere presente, ma vi ringrazio per la presenza. E rubo solamente qualche minuto per raccontarvi le prossime iniziative della biblioteca, che sono qui tantissime. Intanto saluto gli ospiti di questa sera, siamo insieme a Giulio Kramer, Pinuccia di Gesaro, che sostituisce questa sera lo scrittore che doveva essere presente, purtroppo non può essere qui, ma comunque insomma ci siamo arrangiati in qualche altro modo. E poi siamo insieme ad Antonietta Orlandini dell'associazione PASFAP, che collabora con noi appunto per l'organizzazione di questa iniziativa, ne abbiamo portate avanti anche altre, quindi insomma c'è sempre una collaborazione proficua. Abbiamo tantissimi eventi qui in biblioteca, ci ritroviamo qui domani alle 5 per un'iniziativa un po' particolare. Si tratta di questo progetto chiamato Idea in Salon, che insieme all'associazione Bluefink promette di raccogliere tante persone tutte insieme, sviluppare idee e portare, diciamo, un'idea di una società migliore, di collaborazione insieme a dei facilitatori. Ci troviamo poi la prossima settimana per altre presentazioni di libri, ci troviamo infatti martedì 8 alle 17:30 per la presentazione del volume Medioevo, L'età di mezzo nei media italiani. Saremo accompagnati dall'autore Marco Brando in dialogo con Hannes Obermeier. Non è finita qui. Anche mercoledì 9, sempre alle 17:30, con La musica è un atto d'amore, l'arte e la vita di Carlo Maria Giulini. Qui saremo insieme all'autore e anche regista Claudio Chianura con la moderazione di Ivan Miracolo. Gli eventi appunto sono sempre tanti, nella biblioteca troverete locandine, cartoline, quindi vi invitiamo a rimanere aggiornati, a sintonizzarvi sui nostri canali, abbiamo una newsletter, vi invitiamo ad iscrivervi e niente, adesso lascio la parola agli ospiti di questa sera. Grazie e buon inizio. Buonasera anche da parte nostra e come associazione PASPA ETS siamo felici di avervi qui e presentarvi una nuova iniziativa in collaborazione appunto con la Biblioteca Claudia Augusta. Ringrazio un po' la direttrice, ringrazio tutti i collaboratori e in modo particolare Pinuccia De Cesaro. Di Cesaro. Di Cesaro con la G come Genova. Va bene, di Cesaro, lo dico in modo, che è fondatrice della Praxis Edizioni, la prima casa editrice in Alto Adige in lingua italiana e lingua tedesca, di cui è responsabile. È il dottor Giulio Kramer, già dirigente scolastico, già presidente d'ante, intellettuale di spicco. Ecco. Allora, alla fine della conferenza e della presentazione del libro potete, chi vuole, acquistare il libro che si trova sulla, di là, va bene? Poi vi rivolgete a noi, o a me o alla dottoressa. Buona serata e lascio la parola ai relatori. Prego. Bene, mi pare che funziona? Sì. Mi pare che ci conosciamo tutti qua, per cui siamo in un rapporto di amicizia e di familiarità. Ringrazio la Presidente del PASFA che ci ha, come dire, elogiato con titoli. Adesso scriveremo sulle nostre presentazioni anche questi attributi di cui non eravamo al corrente, insomma. Comunque ringraziamo anche la biblioteca che ci ospita. Essere avvolti da queste pareti piene di libri ci dà veramente gioia. Noi siamo gente da libro, nonostante si parli di intelligenza artificiale, di relazioni sui social, di digitalità e quant'altro, il libro non può mai mancare, non può morire, insomma. Poi sentire che dietro a ogni libro c'è una persona, c'è un qualcuno che dà qualcosa, credo che sia la cosa più importante. La signora della biblioteca che ci ospita parlava di Giulini, che ci sarà una conferenza nei prossimi giorni. Lui è stato uno dei grandi musicisti della nostra terra. Io lo conosco perché ha frequentato la scuola Dante Alighieri da piccolo e più volte, tirando fuori i vecchi registri di 100 e passa anni fa, lui mi pare che era dell'inizio del secolo, andava a scuola verso gli anni 10, il 20 del 1900, vedere chi erano i bambini di allora, sapere cosa hanno fatto dopo, insomma, fa un certo effetto, fa una certa impressione. E poi vediamo che qui tra questo pubblico ci sono personaggi interessantissimi, ci sono qua altri autori importanti di libri, anche chi è stato premiato alla grande, cito Bianchetti, che veramente non possiamo. Io gli farei un applauso perché sta mettendo premi in tutta Italia e oltre. Vabbè, visto che parliamo di presentazione dei libri. Purtroppo abbiamo questa sorpresa che oggi non abbiamo con noi Claudio Calabrese, purtroppo per problemi di salute, ci sono anche questi imprevisti che capitano, insomma. Per cui cerchiamo di ragionare un po' noi. È chiaro che non possiamo sostituire un autore è lui, dietro un libro c'è quella persona che l'ha scritto e ognuno può parlarne, può vederlo come vuole, ma non è mai la stessa cosa, insomma. E poi in ogni libro c'è dentro quella persona che l'ha scritto, c'è sicuramente una parte della sua vita, della sua realtà, come dire, autobiografica, eccetera. Però, insomma, allora qui questo libro è stato già presentato altre volte qua in città, ma soprattutto giorni fa è stato presentato anche a Roma alla Camera dei Deputati, in un ambiente quindi importante, perché tratta di una tematica, insomma, nazionale, che ha anche a che fare col diritto, con la giustizia, con quello che può riguardare le persone immigrate. Si parla appunto, nel sottofondo c'è sempre questo concetto della cittadinanza, il sentirsi cittadino. Io ricordo nei nostri paesi quanti emigrati che sono andati in America, in Germania, in Sud America, da tante parti, e tante volte sono tornati con la doppia cittadinanza. Sono tornati, come dire, orgogliosi di dire sono dell'America, o anche della Germania, molti erano. Era una conquista quella di dire, anche se la nostalgia, il senso di appartenenza al proprio contesto di origine non poteva e non può mai venir meno, perché credo che sia un marchio, come dire, forte delle proprie radici da cui si proviene, insomma, c'è anche un senso forte di identità, il mettersi, il sentirsi a casa dove si va ad abitare, insomma. Ecco, adesso magari chiedo alla nostra, la Pinuccia di Gesaro è un'altra autorità qui a livello di, in Alto Adige, insomma, con la sua praxis, avere una casa editrice è già una scommessa di cultura, perché vuol dire dar vita a delle pubblicazioni, a dei libri, fare qualcosa che resta nel tempo, e lei l'ha fatto. Poi per il nostro mondo, per il nostro ambiente, soprattutto di lingua italiana, sappiamo che purtroppo abbiamo quasi più nulla in quanto a casa editrice, quindi lei questo libro l'ha stampato, l'ha letto, ma lei mi ha sempre spiegato che un editore soprattutto fa l'editing di un libro. Editing vuol dire che controlla parola per parola, sistema, modifica, aggiusta in modo che sia leggibile, insomma. Collaborazione con l'autore. E quindi ha un ruolo importantissimo, vero? Certo. Se vuoi dire qualcosa sul tuo lavoro che hai fatto con questo libro? Ecco, allora, la figura dell'editore in Italia non è nota, perché figura come artista, come colui che fa il libro, l'autore. Di fatto l'autore ha l'idea, l'autore è l'autore, ma l'editore è colui che in moltissimi momenti riesce a rendere esplicito quello che l'autore voleva dire e non riesce a dire. gli inglesi hanno questa concezione molto chiara, io ho letto molte cose in inglese dove gli inglesi sentono che l'editore è il collaboratore dell'autore, ma gli italiani no, noi abbiamo gli artisti sono il 100%. Del libro lo scrittore non è il 100%, è il 100% dell'idea fondamentale, ma il valore del libro, la capacità del libro di essere letto e amato e percepito fino in fondo, molto di questo è dell'editore, di cui io sono francamente orgogliosa. Insomma, l'editore ha anche come dire, la capacità, la bravura, non so come dire, di scegliere gli autori, perché non tutti gli autori che si sono presentati alla casa editrice Praxis hanno poi avuto il loro libro editato, perché non c'era il libro praticamente, perché non c'era da editare un bel fico secco, insomma, ecco, cioè, perché noi cerchiamo sempre di editare libri con testa. Allora, non so, la testa, la prima testa che è stata un nostro autore è stato un noto cittadino di lingua tedesca di qui. Un altro è stato Louis Strenker, Klaus Gatterer. Gatterer è stato un grandissimo giornalista tedesco e austriaco, però era della Val Pusteria. L'autore di cui parlavo prima, su Tirolo al Brivio, era Friedl Volker, che è morto da alcuni anni, però abbiamo pubblicato un bellissimo libro di Piero Agostini, grande giornalista della RAI di Bolzano, un intellettuale di Roma, Lucio Luzzatto, un libro, Lucio nel regno dell'Ortler, che veniva in Alto Adige e apprezzava che la particolarità, ha avuto la capacità di apprezzare la particolarità, la singolarità dell'Alto Adige. Insomma, voglio dire che l'editore non è l'ultima ruota del carro del libro, e io ci tengo questo a dirlo, non perché io sia un editore, ma perché vorrei diffondere, vorrei che questa cultura dell'editore si diffondesse anche in Italia, insomma, così. Comunque, venendo al nostro libro, Di fuga in fuga, proviamo a dire intanto chi è questo Claudio Calabrese, visto che lo conosci molto bene, no? Ma io quasi quasi leggo quello che ha scritto Marco Boato di Claudio Calabrese. Funziona questo qua, sì? E allora, cara lettrice, caro lettore, scrive Marco Boato nella prima paginetta qui. Forse conosci già Claudio Calabrese, l'autore di questo romanzo Di fuga in fuga, o forse ancora no, e ti accorgi comunque e ti accingi comunque a scoprire le sue qualità letterarie addentrandoti con curiosità in questa storia, che troverai interessante e coinvolgente fino all'esito finale, che oltrepassa i confini della letteratura. L'esito finale oltrepassa i limiti della letteratura per entrare in quelli dell'impegno civile, di cui poi ne parleremo. Allora, Claudio, cos'è Claudio Calabrese? Pittore, autore e poeta, lo ha definito il direttore della Tageszeitung su tirolese, che non spreca giudizi, Arnold Tribus, in un suo bellissimo ritratto in tedesco dedicatogli non molto tempo fa sul proprio quotidiano il 17 settembre del 23. Milanese di nascita, è nato nel 1975, Claudio è già noto a molti in Alto Adige e Tirol anche come poeta, insegnante di religione, è laureato in teologia oltre che in giurisprudenza, insegnante di religione e pittore. A lui si deve una sequela di ritratti bellissimi, qui c'è scritto molto belli, che faranno emergere figure della vita quotidiana e della sua rete di amicizie, che sono tante, ma anche figure storiche di rilievo internazionale come Golda Meir, Antonio Gramsci, per evitare i più noti. Per citare i più noti. Ma Claudio è particolarmente noto e apprezzato in particolare per due saggi che ho visto anche qui esposti, molto significativi. Il primo, Merano tra una sorpresa e l'altra, è dedicato proprio ad una migliore conoscenza della sua città di nascita, interessante per tutti, anche e soprattutto per gli stessi cittadini meranesi. Il secondo, Bolzano nel segno dei tempi, editati sempre dalla casa editrice Praxis, è stato poi dedicato al capoluogo altoatesino su tirolese e ha avuto un tale successo al punto che ne è stato ricavato lo spettacolo pubblico Affresco Bolzanino, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vederlo. Entrambi questi volumi sono stati pubblicati da Praxis Edizioni, che ora edita il nuovo romanzo, questo qui presente. Questo romanzo è un genere diverso rispetto alle opere precedenti di Claudio. È una storia di fantasia, questo sì, come ogni opera letteraria e non saggistica, ma riflette un aspetto drammaticamente reale nella nostra vita civile e nelle carenze del nostro sistema, che si vuole democratico e in teoria rispettato rispettoso dei diritti di tutti. Si tratta della permanenza nella nostra convivenza civile, la permanenza, permane, resta, permanenza di un divario grave e inaccettabile tra cittadini di serie A, quella grande come una casa, che godono della pienezza dei propri diritti, e cittadini di serie B, grande come una casa anche la B, che di questi diritti non possono ancora godere, appunto in primo luogo del diritto fondamentale al riconoscimento della cittadinanza, pur vivendo, studiando e lavorando in Italia. Non si tratta tuttavia di un'opera dal sapore e dall'impianto ideologico. No, non è un impianto ideologico. Tutte le pagine sono, come dire, narrate con molta empatia, tant'è che è difficile trovare un pezzetto di Claudio da poter leggere, perché bisognerebbe leggere una pagina, insomma. Ecco, un romanzo che fa emergere letterariamente questo divario attraverso la storia avventurosa di un bimbo, di un ragazzino, di un giovane uomo e poi adulto, che pur studiando, lavorando, viaggiando, amando, si scopre sempre dannatamente in quella seconda categoria di cittadini di serie B, grande anche questo, sempre come una casa, perché figlio di chi? Di una immigrata marocchina, arrivata in Italia con lui che era bambino di 4 anni. Una immigrata a Lima che, convivendo stabilmente con un italiano di origine meridionale, Gennaro, napoletano, la cittadinanza ha potuto ottenerla, lei, mentre il figlio Ryan è arrivato all'età adulta, rimanendo sempre straniero, tra parentesi marocchino, soltanto con il permesso di soggiorno, tra virgolette. Il romanzo di Claudio, pagina dopo pagina, si accompagna a conoscere la storia del ragazzo Ryan, anche della sorella più giovane Anastasia, anche lei cittadina, perché figlia di un italiano, cittadino italiano, Anastasia, perdo la riga, e poi ambientandola principalmente nella città di Trento, ma anche con puntate in Germania, ospite di una singolare famiglia tedesca, ospite di una famiglia tedesca della loro figlia, eccetera. L'ultimo capitolo del romanzo, mai più diritti proibiti, Ryan, diventato adulto con il suo amico marocchino Hassan e con l'aiuto di un giovane avvocato trentino, decide di, ecco questo è interessantissimo, fondare un'associazione con questa denominazione, per impegnarsi a mettere fine allo scandalo dei cittadini di serie B. E chiudo la lettura. Bene, allora come abbiamo la capito... la presentazione di Claudio, eccetera. Non dobbiamo dire tutto, perché sennò non comprano più il libro. E non lo leggono, e sarebbe una perdita non leggere il libro, perché è molto gradevole da mi leggere. Mi pare che si intreccino due aspetti, uno è un po' questa missione di migliorare... come dire, la nostra realtà di fornire il diritto di cittadinanza a certe categorie di persone, poi magari ne parliamo un attimo, con la vicenda personale di questo protagonista che si chiama Ryan. Questo Ryan, chi conosce bene Dante sa che la vita è sempre fatta di un continuo modificarsi, di un continuo crescere, di un continuo evolversi delle situazioni. Anche lui è passato da situazioni, come dire, di grande precarietà, da anche problematicità di tipo adolescenziale, di tipo, come dire, anche ambigua nel modo di comportarsi, di reagire di fronte ai problemi che incontra, per raggiungere una maturità dopo aver attraversato tanti problemi, tante peripezie, insomma. Sicuramente l'avere al fondo della propria consapevolezza la sensazione di non sapere chi è in un ambiente in cui vive è sicuramente la causa di tanti suoi problemi, di tante sue situazioni difficili. Perché addirittura nella sua famiglia è l'unico che non ha la cittadinanza, questo ragazzo. Allora io ho parlato giorni fa con Claudio Calabrese e gli ho chiesto, ma come mai ti sei messo a scrivere questa faccenda, questa storia che riguarda un ragazzo senza la cittadinanza, cioè, lui mi ha raccontato, e credo e direi che posso confermare quello che lui mi diceva, che è un problema molto diffuso. Ci sono tante persone anche nel nostro contesto qua, della nostra realtà locale, bolzanina, altoatesina e non solo, trentina, visto che il romanzo è ambientato a Trento, che hanno questo problema, che pur essendo qua da tantissimi anni, vivendo, andando a scuola, come dire, lavorando e quant'altro, non sono cittadini italiani, insomma. Questo Ryan aveva la sorella che è nata figlia di un padre italiano, perché quella è italianissima. Voi sapete che la stessa mamma. Ecco, voi sapete che ci sarà anche un referendum a giugno su questa questione della cittadinanza. Si parla di ius soli, di ius scholae e quant'altro, per quanto riguarda i criteri che possono determinare la cittadinanza. Ma posso dire anch'io, come esperienza, abbiamo fatto nel far fare gli esami sulla lingua italiana, perché voi sapete che è un requisito quello di avere un livello di conoscenza almeno B1 per diventare cittadini italiani, per chi è straniero, però spesso ci sono dietro delle situazioni complicatissime, perché la cittadinanza non deriva solo dallo Stato che la concede, quindi dall'Italia in questo momento, ma anche dagli accordi con gli Stati di provenienza, per cui uno deve fare tutto un percorso di richieste di documenti, di autorizzazioni, in questo caso sarebbe del Marocco, ma ci sono quelli del Pakistan, quelli dell'India, quelli di altre realtà, insomma, e anche pagare molto, insomma, per arrivare ad avere i documenti necessari. Dopodiché devono anche superare un esame particolare sulla lingua italiana. Chiaramente è tutto giusto, però il problema è, come dire, un conto è chi è appena arrivato, e giustamente non è che si può dare la cittadinanza a ognuno che passa per la strada. Potremmo anche discutere a lungo e avere pareri anche diversi su queste situazioni, però il discorso invece di chi di fatto vive agisce in un contesto che è quello dove deve condividere tutte le realtà di quel paese, di quella realtà, insomma. Abbiamo ad esempio il caso di moltissime donne di famiglia, mogli di persone di origine immigrata, che sono qua magari da 20 anni, però magari una donna che sarebbe chiusa in casa, che fa la casalinga, si occupa dei suoi figli, eccetera, non riesce neanche magari a superare un esame di lingua di un certo livello, insomma. Quindi ci sono anche problemi umani. Ecco, il problema è che chi non ha la cittadinanza non ha un passaporto che gli permetta di viaggiare, di andare all'estero dove vuole, non gli permette di avere certi diritti, come quello di votare e quant'altro, insomma. Vabbè, comunque questo libro si chiama Di fuga in fuga. Puoi spiegare tu, Pinuccia, perché cosa si intende? Ecco, il titolo del libro riflette quella che è stata quello che è stato il tormento di Ryan, perché lui, dopo aver lavorato un periodo di tempo, essere stato stimato, ha incontrato sempre degli ostacoli che lo hanno fatto interrompere quel tipo di rapporto per andare altrove, per andare da Milano a Norimberga, per andare, cioè sempre. Il fatto di non essere cittadino italiano gli ha creato dei problemi tali che ha dovuto lasciare il posto dove lavorava e dove era stimato. E non posso dire la sintesi, ma diciamo che il titolo del libro è proprio emblematico, non sintesi, ma emblematico della vita di Ryan. Per cui poi alla fine del racconto, di questo racconto, è un racconto dove ci sono anche tante vicende allegre, simpatiche, non è un libro pesante. Alla fine di questo racconto c'è un capitolo, un breve capitolo, che si chiama Mai più diritti proibiti, che è proprio la sintesi che lui trae dalla sua vita. Mai più diritti proibiti, e che cosa decide lui con una, adesso questa è una paginetta, magari mezza paginetta vorrei leggervela, che cosa decide? Di fare un'associazione in Italia che persegua la realizzazione di questo diritto. Ryan ha le idee chiare, vuole costituire un'associazione per dare voce ai figli di immigrati nati e cresciuti in Italia senza cittadinanza italiana. Si mette in contatto con il suo vecchio amico Hassan, suo vecchio amico dentro nel libro, per parlargli del suo progetto. Si accordano di vedersi in Piazza Duomo a Trento. Quando Ryan arriva nel primo pomeriggio per attenderlo davanti alla fontana, Hassan è già lì. Sei puntualissimo, grazie, gli dice Ryan e lo abbraccia calorosamente. L'amico lo invita al bar di fronte. Sputa rospo, cos'è che ti passa per la mente? Chiede Hassan. Ascolta, tu conosci la mia storia. Fin da piccolo ho dovuto fare l'esperienza di essere figlio di immigrati anche se sono cresciuto in casa di un italiano. Hassan guarda Ryan un po' meravigliato. Come? Noi tutti, e con ciò non voglio che altri ragazzi come noi debbano fare le nostre stesse esperienze. Non è giusto. Bambini che nascono e crescono in Italia hanno il diritto di essere riconosciuti come cittadini a tutti gli effetti. Ti pare giusto che persone che parlano la stessa lingua come i loro coetanei, che frequentano le stesse scuole, debbano scontrarsi con ostacoli burocratici e discriminazioni? Punto di domanda. Ryan illustra al connazionale l'idea di mettere in piedi un'associazione con lo scopo di aiutare quelli come loro, discriminati unicamente perché figli di immigrati. Hassan ascolta attentamente mentre i suoi occhi sono pieni di lacrime. Afferra le mani di Ryan, le stringe con forza. Ti aiuterò a lottare per coloro che non hanno compiuto alcuna migrazione volontaria. Sì, sì, certo che la faremo questa associazione e lotteremo come leoni, gli risponde l'amico. Si abbracciano, Hassan promette a Ryan che cercherà amici pronti a sostenere la causa. E poi altre belle certo. Testimonianze. Sì, allora questo è un po' il punto di arrivo della sua realtà della fuga, esistenziale, di fuga in fuga. Sì. Fuga in fuga, e poi facciamo un'associazione affinché non debbano più verificarsi queste esperienze dolorose come la mia. Lui continuava a fuggire dalle varie realtà. Tanto il romanzo è ambientato a Trento. Sì. Io ho chiesto a Claudio Calabrese perché a Trento, lui mi ha detto che perché è una città che lui ama molto, ovviamente. Diversi anche che abbiamo a che fare col Trentino, per cui condividiamo compreso realtà, insomma, Giulio Claudio. Eh beh, certamente, no? Compresa la Pinuccia che è nata in provincia di Trento, benché sia sempre cresciuta in provincia di a Bolzano e Merano, Lagundo, Bolzano, Merano. Ma anche perché lui mi dice a Trento vedeva i due, come dire, due caratteristiche, una quella antica che è la città del Concilio di Trento, l'altra la realtà attuale, la realtà dell'università di sociologia, delle varie rivoluzioni, delle varie cambiamenti. Voi sapete che fra pochi giorni ci sarà il Festival dell'Economia, quindi una città vivacissima, possiamo dire con un po' anche di campanilismo, che è più vivace, più attiva un po' di Bolzano. Non so se l'assessora si arrabbia se lo diciamo in questo senso. Ma Bolzano è una città completamente diversa, perché ha anche i suoi problemi che Trento non ha. Non ha l'unica, ha più convivenza di gruppi linguistici, eccetera, insomma. Però devo dire che Trento è cresciuta, si è, come dire, ha sviluppato una sua, ecco. Però anche i conflitti, perché il problema degli stranieri, il problema anche di tante contraddizioni ci sono a Trento come ci sono da altre parti, insomma. Comunque una cosa, questo è un libro che si legge piacevolmente come libri interessanti, perché da ogni capitoletto non si vede l'ora di passare al prossimo, per capire un po' come si evolve la situazione, nel senso che è un po' uno scorrere di eventi, di situazioni, di momenti di vita di questo ragazzo che incontra tanti amici con i quali spesso prima si illude che vada tutto bene, poi si accorge che ci sono tante delusioni, anche tanti innamoramenti, tante realtà, come dire, di rapporti con donne che insomma, sembra che sia la soluzione migliore per la sua realtà esistenziale, poi non è mai quella giusta, insomma. Ma al fondo c'è anche una, come dire, una situazione psicologica che è quella, come dire, di non saper mai in fondo come comportarsi, insomma. E gli pare di vedere fantasmi dappertutto, anche se non è vero, perché probabilmente c'è un discorso anche di depressione derivante da questa sua incertezza sostanziale, insomma. Ecco, un po' questo. Ma non so, vogliamo sentire già se c'è qualche domanda, nel senso che ci saranno dei... purtroppo non essendoci l'autore è un po' particolare il tipo di narrazione. Certo. Insomma. Prego. Loro hanno ben parecchi diritti che abbiamo anche noi, però per esempio questi ragazzi che vanno a scuola, quando i compagni vanno in gita all'estero e loro non possono andare, e sono così integrati questi ragazzi extracomunitari, ne conosco qualcuno, ma che proprio non ha senso farli sentire diversi. Certo. Non ha proprio senso, sì. E purtroppo le leggi, anche oggi leggevo sul giornale che purtroppo insomma anche in fase insomma giù a Roma non è che sono seguono questo problema con molta empatia, sì. Appunto proprio oggi lo si leggeva sul giornale che stanno tagliando le gambe anche, sì. Perché Sicuramente c'è un po' questa situazione, ma a volte questi ragazzi sono talmente diversi perché loro stessi accentuano la loro diversità, nel senso che magari come in questo Ryan ha incontrato tanti amici come questo Daniel che vogliono far di tutto per aiutarlo, perché anche altri hanno le loro caratteristiche, i loro problemi eccetera, però sotto sotto lui intende sempre che ci sia sotto un qualcosa che sa più di sopportazione, di quello mi vuole aiutare perché mi considera sfortunato questo o quell'altro, magari non era così, perché poi tra ragazzi le vicende girano in modo diverso e magari uno si dimentica che uno è straniero, uno è italiano eccetera, però sicuramente nell'animo di queste giovani continua a vivere questo tipo di problematiche, sì, insomma, certo. No? Ecco, questo è un po' chiedo scusa, mi chiamo Maffei. Il problema non mi sembra così semplice, quello degli immigrati e quello soprattutto degli immigrati nati qui o comunque che hanno fatto le scuole qui, eccetera. Mi riferisco a quello che avrete visto tutti quanti per televisione nei giorni scorsi a proposito di quell'egiziano che è morto a seguito di una fuga inseguito dai carabinieri. Ci sono state per giorni delle manifestazioni a Milano, a Torino, nelle più grosse città, da parte di ragazzi di seconda generazione, quindi erano sicuramente ragazzi nati in Italia, cresciuti in Italia e vissuti con i loro compagni, ma soprattutto nelle periferie delle grosse città, vissuti probabilmente tra di loro. Bene, lì è emerso che veramente non c'è alcuna accettazione del luogo in cui si trovano. Perché le parole che dicevano in queste manifestazioni erano assolutamente contro l'Italia e contro gli italiani, che sarebbero delle persone che non accolgono, sarebbero delle persone che non li accettano, eccetera. E sto parlando, ripeto, di gente nata, cresciuta e vissuta qui. Quindi non è così semplice, secondo me, il discorso. Grazie. Altri? No, ma non è che c'è la risposta che ci possiamo avere noi, insomma, su questa tematica. E sicuramente è una delle dimensioni con cui ci stiamo un po' confrontando, eccetera. Insomma. Io credo che la scuola abbia un grande ruolo in questo processo, più che educativo, proprio formativo. Non so quanto a scuola i ragazzi viene affrontato apertamente questo problema. Tu, Giulio, ricordi quando lavoravi a scuola che questo problema emergesse perché c'è, o invece rimane lì nella sua profondità questo problema, invece che emergere proprio a livello formativo, educativo, quale deve essere la scuola? Beh, diciamo che la scuola deve essere quella che indirizza nel modo più umano possibile ogni situazione anche soggettiva di ciascuno. Per quanto ricordo io, posso dire, almeno per quanto ho fatto io, eccetera, che come fa Claudio, che anche lui è un insegnante insegna di niente scuola, poco di meno, insomma, religione, che abbiamo cercato di fare moltissimo perché ognuno possa, come dire, realizzarsi, possa esprimere al massimo le sue potenzialità, chiunque esso sia, da qualsiasi provenienza arrivi, insomma. Sicuramente poi dipende dalle storie di vita di ciascuno, anche dalle proprie famiglie. Questo Ryan, ad esempio, trovava le sue tristezze proprio nell'ambito della sua famiglia, perché certo, il padre napoletano dava massima fiducia e importanza alla bambina, alla sorella, che quella invece è nata qui in Italia, figlia anche del padre italiano, mentre Ryan è nato in Marocco. È figlio della moglie. Quindi, ecco, no? Quindi chiaramente, se già uno viene da casa con ambiguità di fondo, con come dire, sensazione di non essere completamente accettato nel proprio ambiente familiare, probabilmente non basta neanche la scuola per togliergli queste sue sensazioni. Prego. I compagni di classe come si comportano nei confronti di un bambino o una bambina che sanno straniera? Beh, credo che anche lì dipenda moltissimo. Cioè, classe, classe, ci sono sicuramente i ragazzi sono, come dire, a volte sono spietati, nel senso che non è che sempre, cioè, o sono al massimo altruisti, come possono essere anche al massimo cattivi per certi versi, nel senso, non è che abbiano un comportamento uniforme di fronte ai compagni che si ritrovano. Chiaramente dipende molto anche dall'azione dei docenti, della scuola, di quale impostazione viene data a quella classe, perché stranamente vediamo anche oggi che ci sono fatti addirittura di violenza nella scuola o altro. Ma perché in certe classi, giustamente la dottoressa Franca dice, ma cosa succede in classe? Ma ci sono classi dove le cose si può dire che vanno molto bene, altre dove ci sono preoccupazioni e anche tensioni e anche complicazioni varie. Dipenderà sicuramente dalla composizione di quelle classi, dipende anche dalle famiglie, perché sappiamo che dietro c'è anche quello che uno si porta sia da parte delle famiglie italiane che delle famiglie straniere. Ecco, dipende da tante cose. Questo stesso Ryan si è incontrato anche con l'illegalità. Per un periodo della sua realtà aveva visto che per far soldi era comodo, perché purtroppo si ha la situazione, anche la percezione, che spesso gli immigrati si lasciano più facilmente andare a comportamenti scorretti, illegali e quant'altro. Questo Ryan, anche lui in un momento particolare, aveva proceduto al fatto che per far soldi si poteva convivere con certe realtà della malavita, eccetera. Devo dire che lui aveva già comunque dei principi di fondo positivi e ne è uscito al più presto possibile. Quindi questo è stato. Purtroppo e non è per tutti così, insomma, ci sono casi e casi. Diciamo che comunque a volte si generalizza, o sono tutti negativi oppure bisogna difendere qualsiasi cosa succede, credo che bisogna leggere con una certa oculatezza, con una certa, come dire, responsabilità la realtà di ciascuno. Ecco, io ho fatto anche il direttore di una scuola che va anche la scuola del carcere. Nel carcere di Bolzano sappiamo che ci sono quasi tutti immigrati quelli che sono dentro, insomma. Però conoscendoli, facendo le proposte anche culturali, scolastiche, educative e quant'altro, si vede che anche quelli erano poveri diavoli sostanzialmente, perché chiaramente uno che è venuto in modo clandestino in Italia, che si è trovato nella miseria più assoluta, che non sapeva dove buttarsi, si può capire, fossimo anche noi in quelle condizioni, che il passo per cedere all'illegalità è facile, insomma. Il problema è come cresce in questo stato di cose, che non riguarda solo gli immigrati, ma riguarda noi tutti, perché siamo noi in questo genere di situazioni con cui bene o male abbiamo a che fare, e ne avremo a che fare ancora di più, insomma. Adesso poi mi pare che crescano anche nel nostro ambiente le preoccupazioni anche di tipo sociale, economico e quant'altro, perché di sicurezze non ce n'è moltissime. Forse ai nostri tempi vedevamo con più gioia le prospettive future, in questi giorni, oggi, vediamo cosa viene fuori con i dazi di Trump, cosa viene fuori con le guerre che non si capisce quando mai finiranno, o se ne verranno di peggiori o altro. Il contesto generale non è certo quello più facile per nessuno, insomma. Quindi si complicano le cose anche in questo panorama, come dire, di difficoltà. Nella scuola credo che chi ci agisce, insomma, ha una grande responsabilità, un grande lavoro da fare, e non è mai scontato. Sicuramente un insegnante serio, quando torna a casa la sera, non può non essere stanco e aver cercato di dare qualcosa in più per i suoi ragazzi. Prego. Innanzitutto grazie per la presentazione, spiace che non c'è qui Claudio, ma comunque è bello parlare di questo tema. E, beh, io sono Mattia Scolano, sono consigliere comunale e ho anche autenticato le firme per la raccolta referendum sulla cittadinanza, ciao, e, che sarà giugno. E credo che si ripercuota un po' anche quello che diceva prima il signore, no? Noi abbiamo il paradosso che abbiamo delle bambine, dei ragazzi che per 18 anni non sono cittadine e cittadini italiani, però qualcuno che viene da fuori dopo 10 può già esserlo. Col referendum si toglie addirittura, cioè si dimezza l'età da 10 a 5 anni necessari di residenza per poter, come diceva prima Giulio, poi anche fare il test di lingua e così via, no? E credo che questo sia un po' anche il problema, perché ci sono dei ragazzi che per tutto il ciclo scolastico, per 18 anni, si sentono comunque diversi, e sappiamo quanto è difficile anche durante l'adolescenza sentirsi diversi, non poter far parte a pieno del gruppo. E questo è, per esempio, questo referendum adesso dimezza solo il tempo e non parla di Ius Scholae, che era l'altra proposta, dove si diceva che dopo 5 anni di istruzione si poteva già avere la cittadinanza, che forse era anche più indicato, diciamo, proprio se parliamo dei ragazzi, come diceva anche il signore prima, il tema proprio di come nascono, come crescono queste seconde generazioni e come riusciamo poi a creare anche una comunità unita e dove ci sia anche una condivisione dei valori. Giusto. Sicuramente non so come andrà il referendum, può anche darsi che non raggiunga il quorum, eccetera, insomma. Resta comunque un po' il problema, insomma, che non si chiuderà neanche col referendum stesso, probabilmente, come tipo di preoccupazione, eccetera. Comunque mi fa piacere che questo bel pubblico sia coinvolto e attento, pur in mancanza del nostro autore. È quello che dovrebbe maggiormente emergere nella società, qui tutti noi qui abbiamo presente questo problema, ma nella società questo problema è realmente da tutti presente. Molti no, e sono convinta anch'io che c'è questa difficoltà, e forse ciascuno di noi, per quello che può, per l'ambiente che frequenta, dovrebbe condizionale impegnarsi in questo senso, no? A far rendersi conto anche chi oggi non capisce di quanto è giusto che ciascuno abbia i diritti di cui ha diritto. Sì. Qualcuno pensa che la cittadinanza sia un problema solo amministrativo o di tipo non è così formale, eccetera. Purtroppo è anche è un discorso che agisce molto sulla sensazione di se stessi, sul senso di appartenenza, sulle sicurezze, sul sentirsi accettato e così via, insomma. Comunque quando si chiede la cittadinanza vanno via almeno 2-3 anni, Non è che te la danno l'anno dopo, passano comunque almeno 2 anni, anche 3. Certo. Non è che... Bene. Ci sono altri interventi, altre osservazioni, altri dubbi? Io lascerei al libro stesso, per chi lo vuole avere, insomma, la possibilità di esprimere ad ognuno quello che può sentire, insomma. Sicuramente è un libro che si legge velocemente, molto anche interessante, piacevole, insomma. A volte fa anche venire rabbia, perché dici, ma perché si comporta così, insomma. C'è il compagno che cerca di aiutarlo e lui si arrabbia e gli risponde male, eccetera, insomma, no? Perché non si fida, per questo... Però poi arrivando in fondo uno capisce, insomma, di ambiguità, sarà anche il carattere, perché poi ognuno ha il suo carattere, insomma. C'è chi è timido, che è arrendevole, c'è chi ce l'ha su quel mondo, e a volte è anche utile avercela su quel mondo se questo poi permette di arrivare a qualche buon risultato, insomma, no? Qui siamo, vedo anche esponenti politici, come si è espresso l'amico che ha parlato adesso, ma ci sono altri che sono anche candidati, eccetera, e sicuramente è anche importante portare avanti non solo il problema di come aggiustare le strade, di come cambiare come dire, il contesto esterno di una città, di un certo ambiente, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini, insomma. Uno si chiede a volte perché molti giovani vanno all'estero, non è mica un problema di Bolzano o di Trento, insomma, questo è un problema molto ampio, molto generale. Però il fatto di dire io sto bene nel mio contesto, credo che sia un discorso, come dire, che sia un obiettivo da raggiungere, insomma. Penso che anche per gli amministratori, i politici e quant'altro, il poter concludere sono riuscito a far star meglio i miei cittadini, credo che potrebbe essere il vero programma coniugato, sia pur con tutte le varie variabili specifiche, ma che poi il significato di insieme possa essere quello. Bene, vedo che c'è anche il nostro dottor Pasquali, se voleva aggiungere qualcosa per caso. Dalla lunga esperienza. Non ho letto il libro, purtroppo, quindi non posso entrare diciamo nei dettagli. Però siccome il problema su cui si discute è lo ius, ecco, lo ius soli, io credo che sarebbero d'accordo sullo ius cole. Io credo che sono d'accordo tutti, perché è ovvio che uno che è cresciuto, è nato qui, è cresciuto qui, ha fatto la scuola italiana, e quindi deve avere la possibilità di diventare cittadino. Fuori di dubbio, perché anche per evitare le delusioni che nel rapporto con i, con i, compagni di classe, con i colleghi, con gli amici. Ecco, quindi mi auguro che il Parlamento provveda in tempi molto brevi. Ringrazio moltissimo di questa affermazione. Bisogna anche dire che spesso i cittadini che hanno, le persone che hanno ottenuto la cittadinanza sono spesso le più orgogliose di appartenere. L'ho visto in tante situazioni, mentre magari noi siamo spesso molto scettici o parliamo male del nostro ambiente, della nostra realtà di vita e quant'altro, non lo fanno certo quelli che hanno lottato tanto per poterla condividere davvero, insomma. Bene, se non c'è altro noi avremo finito e vi ringraziamo moltissimo della vostra bella presenza. Arrivederci a tutti. Possiamo fare parlare anche la signora? Sì, un attimino, perché prego. Lei è a conoscenza un po' della realtà che gira tutto il mondo per il lavoro. Perché io non parlo italiano bene, io sono americana. Mio figlio è cittadino. Mio marito è italiano, ma un soldato, e siamo in giro tutto il mondo. Mio figlio è andato 9 scuole in 12 anni, prima la università, in 3 differenti paesi, ma è lui un cittadino italiano, anche americano. Qui in Italia, lui, prima gli altri ragazzi parlano con lui a scuola, lui bisogna imparare dialetto di zona, lui bisogna parlare in Cuneo, Borgo San Dalmazzo, 10 chilometri, Borgo San Dalmazzo e Cuneo, altro dialetto, Torino, Udine, Roma, dimenticato uno. Ma lui, una volta una maestra ha detto, ma tuo figlio la prima settimana chiede, chiama me, io vado, non parlo bene. E lei ha detto, ma tuo figlio è antipatico, non sociale? Ho detto, aspetta 2-3 mesi quando lui impara dialetto e altri ragazzi parlano con lui. È vero. Prima Natale trovo un amico, 2 amiche, ma è difficile per lui tutto il tempo. Anche in Belgio bisogna imparare flamingo. Ho fatto un errore, lui parla francese, noi abitiamo una zona di flamingo. I flamish. So è difficile per i ragazzi, ma e mio figlio anche non come tanti di altri italiani, perché è alto e biondo, so penso loro pensano lui sempre un straniero, ma lui è un cittadino, ma adesso lui va bene, ma è un tempo difficile per i bambini. Anche perché la signora è la signora Risi, la moglie del comandante delle, come si chiama, dei carabinieri? Delle truppe alpine, quindi sono sempre in giro per il mondo, no? Adesso sono qui, il generale, sì, il generale Risi, dobbiamo dire le cose. Però è una realtà, no? Io volevo anche aggiungere una cosa, che insegno la lingua italiana per stranieri, oltre che insegnare sostegno, quindi tutti i giorni mi confronto con questa realtà, con queste persone. Anche se la mia linea politica è un po' moderata, però vedo delle realtà veramente inadeguate per tutti, perché bisogna trattarli da esseri umani, non da oggetto. Adesso basta, mi fermo qui, non posso andare avanti. E io vi ringrazio tutti per la vostra presenza, ringrazio la dottoressa Di Gesaro, così l'ho detta bene, dottor Klammer, e tutti i presenti, e chi vuole acquistare il libro sono disposte di là. Comunque si può rivolgere o la ragazza della biblioteca a noi o anche alla dottoressa, va bene? Grazie mille, alla prossima. Grazie.